Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Linee d'ombra di Matteo Caccia. Di qua, lato jugoslavo, non c'era nulla. E di là c'erano le guardie che ci guardavano. Due, mamma e figlio con le valigie, chissà cosa penseranno. Quando superammo la metà del ponte, eravamo teoricamente in Ungheria, ma non sapevamo ancora se avremmo potuto ottenere il visto e proseguire il viaggio. Storie di dogane e di nuovi territori in una puntata che si intitola Frontiera. Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga? Un fiorino. Hey! Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, stavamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno, adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Che è caduto il sacco, quello è stato... Un fiorino. Sono due, sono molti di più, ma sono due in particolar modo i pezzi di questo film che ci sono rimasti impressi. Uno è questo, è dove andate, sì ma chi siete, un fiorino, e l'altro è ricordati che devi morire, sì grazie, mo me lo segno. Massimo Troisi e Roberto Benigni, che erano anche registi di questo film, anche i sceneggiatori di questo film, insieme a Giuseppe Bertolucci. L'anno era il 1984, quindi sono passati direi un bel 36 anni di fatto, quindi sono un bel po' di anni. Abbiamo aperto questa puntata con questo pezzo di Non ci resta che piangere, perché si parla di frontiere oggi qui a Linee d'Ombra. Mai devo dire il titolo del programma è più giusto per la puntata di oggi. La prima storia è la storia di un gruppo di persone, cioè un giovane uomo che è il protagonista di questa storia, della mamma e della nonna che devono passare il confine tra la Croazia e l'Ungheria. Siamo nel 1979, quindi cortina di ferro, Jugoslavia, non ex Jugoslavia, ed è davvero rocambolesco il modo in cui riescono ad arrivare loro di nazionalità croata, perlomeno la mamma e la nonna, arrivare fino alla frontiera e poi da lì in avanti in bocca al lupo, o meglio per passare in bocca al lupo. E la seconda storia invece parla di frontiera da un punto di vista non di confini ma di pionierismo, cioè di come un uomo all'inizio del 1920 si è riuscito a far diventare quella frontiera lontana che era l'Alaska un luogo da raggiungere grazie a dei piccoli aerei molto leggeri e molto difficili da guidare, al punto che la sua storia poi finirà in un modo non molto felice. Ma insomma, mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Estate del 1979. Andiamo a trovare a Krizevci in Croazia, allora Jugoslavia, mia nonna, in croato Baka. Ed in un weekend di agosto decidiamo di andare a trovare anche dei parenti che stavano a Budapest. Partiamo un sabato pomeriggio in treno verso il confine ungherese e dopo pochi chilometri veniamo fermati, mia mamma ed io, a Varaidin, l'ultimo paese importante prima del confine, dove venivano effettuati i controlli doganali da parte della polizia jugoslava. Mia nonna può continuare il viaggio in quanto facente parte di un paese che appartiene alla cortina di ferro. Invece, mia mamma ed io, senza visto, veniamo fatti scendere. Siccome a Varaidin non c'erano alberghi, dormiamo in stazione su una panchina. Verso le 5:36 della mattina, un fracasso infernale, seguito da una visione di un altro secolo, ci sveglia. Si tratta semplicemente di una locomotiva a vapore che passa solennemente dalla stazione per affrontare una, per lei, normale giornata lavorativa. Mia mamma è originaria di un piccolissimo villaggio, ma proprio 300 anime, fuori da tutto, lontano da tutto, tipo che i bambini d'inverno devono andare a fare 5 km a piedi nella neve per andare a scuola, da soli andavano ovviamente, e si chiamava Junzi. Giunzi si trova, penso, a una manciata di chilometri dal paese più grosso di 15-20.000 abitanti, che si chiama Križevci, che è diventata poi la casa di mia nonna, perché mio nonno, prima di morire, lavorava lì a Križevci. Invece, quando erano a Giunzi, avevano un negozio di tutto, l'emporio, ecco, diciamo così, l'emporio. I poliziotti ci avevano informato che il visto si poteva fare direttamente in dogana, ma era necessario procurarsi prima le fotografie. E ci informiamo sul fatto che in un paese vicino al confine, raggiungibile in pullman, c'è un fotografo. Arriviamo alla casa di questo fotografo, troviamo la madre, una simpatica donnina sugli 80 anni, tutta vestita di nero. Ci informa che il figlio è a pascolare la mucca al campo, che è una mezz'ora di cammino da lì. Comprendendo la nostra situazione, inforca la bici e parte a razzo verso il campo, prendendo un piccolo sentiero. Dopo mezz'ora arriva il figlio con la bici e senza la mucca, che era stata presa in carico dalla madre. Ci dice che avrebbe potuto farci le foto, anche se è di domenica mattina. Oltretutto stiamo parlando di un fotografo old style, non c'era la Polaroid, ma parliamo di quelle macchine fotografiche stile fine 800, da daguerrotipo, dove l'operatore mette la testa sotto un telo e c'è quella specie di soffietto davanti. Ci fa la foto, oltretutto mi ricordo che era venuta benissimo. Il problema foto è risolto, ora rimane il problema di raggiungere la dogana a circa 20 minuti di macchina da lì. Ci viene in soccorso proprio lui, il fotografo. Aveva un'autovettura, che era abbastanza un bene di lusso in quell'epoca, e lui era anche il tassista del paese. Però c'è un problema. Per la scarsità di carburante ci sono le targhe alterne. Lui non avrebbe potuto girare quella domenica lì. Capita la nostra situazione e molto compassionevolmente si offre, a rischio perdita di licenza, di accompagnarci fino ad un punto il più vicino possibile al confine, dove sapeva di non rischiare l'incontro con la polizia. Da lì, bagagli in mano, stile emigranti, a piedi, ci troviamo a 100-200 metri prima del ponte sulla Drava, abbandonati, con un taxi sgommante che se ne va, in mezzo al nulla, in un'atmosfera abbastanza da scambio di ostaggi in un qualche glorioso film di spionaggio. Attraversiamo, un po' ridendo sotto i baffi e un po' preoccupati nel vedere sterefatti doganieri jugoslavi assistere a questo atipico tentativo di espatrio. Quando superiamo la metà del ponte, siamo teoricamente in Ungheria, ma le due dogane sono entrambe sulla sponda ungherese della Drava, quindi non sappiamo ancora se potremo ottenere il visto e proseguire il viaggio. I poliziotti di frontiera ci vedono arrivare con un certo interesse e con divertita cortesia, ci dicono molto gentilmente di metterci in coda per espletare la pratica del visto. Il tutto avviene, ironia della sorte, davanti ad una macchinetta automatica per fare le foto di cui il poliziotto di Varadin non conosceva l'esistenza. Io e mia mamma vivevamo questa situazione molto tranquillamente, perché i motivi che ci portavano in Ungheria erano assolutamente normali, visita parenti, e sapevamo di non avere grossi problemi, magari contrattempi, perdita di tempo, ma tutto sommato il tempo fluiva serenamente. L'abbiamo vissuta come, vabbè, ormai siamo in ballo, balliamo, e ridevamo, no? Dopo un'oretta di burocrazia jugoslava e ungherese, arriva il momento in cui possiamo varcare il confine. A questo punto sorge il problema di arrivare fino al paese successivo, dove avremmo potuto prendere un pullman e poi un treno. Ma per arrivare alla stazione del pullman non c'è nient'altro che sperare in un passaggio di qualche volenteroso automobilista. E qua ci viene in aiuto un doganiere ungherese, che conosce l'abitudine dei parenti ungheresi di qualche persona che vive in Jugoslavia, che si riempiva il baule di cibi di ogni genere, fra cui la shunke, che è un prosciutto affumicato, poi le grappe, le slivovitz, e ogni genere di bene alimentare in barba alle normative, che vietavano questo trasporto di beni alimentari considerati un lusso nell'Ungheria di quell'epoca. Trova quindi una simpatica coppia di mezz'età. Gli chiede di aprire il bagagliaio. A questo punto, un po' pallido e un po' tremante, il marito apre questo bagagliaio e dentro c'è ogni ben di Dio che lui ovviamente non avrebbe potuto trasportare e per il quale è perseguibile di sequestro e poi anche passibile di multa. Il doganiere lo guarda e gli dice: io non le faccio la multa, ma lei è disponibile a portare questa mamma e questo figliolo al prossimo paese? il volto dell'uomo si apre in un sorriso di gioia e di felicità e non esita un attimo a darci quel passaggio. Dopo qualche ora siamo arrivati. Life, it's a candy with a red hot chili pepper filling inside. Life, are you ready? You'll be butterfly in the ultimate fight. Light treats you gently. In chiusura di ogni puntata di Linea d'Ombra io dico che raccontare storie è il modo migliore per conoscere il mondo, che un po' è una formula, un po' è una cosa che credo per mille motivi, e nella storia di Martino è proprio lampante, non solo perché ci racconta delle vite, dei pezzi di vita che ha vissuto, che appartengono alla nonna, alla madre e a lui stesso, ma proprio perché ci racconta un pezzo di mondo che a tutti gli effetti non c'è più, o perlomeno non c'è più nei termini in cui ce lo racconta lui. Pronto, ciao Martino, buongiorno. Buongiorno Matteo. Me lo confermi, non esiste più quel mondo lì? Beh, da noi no, più ci si sposta in luoghi rurali più esisterà. Di sicuro sta cambiando tutto anche là. Intanto non è più Jugoslavia ma è Croazia. Certo. E già questo è un grande cambiamento. E in Ungheria e ti poi... sei tornato? Ci sono tornato poi con mia moglie dopo 20 anni, però fu un viaggio molto più semplice, molto più agevole del primo. Senti, invece tua mamma è originaria di dove in Croazia? Di Križevci, in realtà di Žunci, che è un villaggio vicino a Križevci che rimane a una settantina di chilometri da Zagabria verso appunto il confine ungherese. Quindi nell'entroterra. Parli croato o lo capisci quantomeno? No, non lo parlo e non lo capisco se non proprio le parole elementari, diciamo. Ok, quindi appena appena. Ci vai, la frequenti ancora la Croazia? No, è qualche anno che manco. Sono andato l'ultima volta 15 anni fa a fare delle vacanze sulla costa, vicino, certo, a Zara. Certo, insomma, come moltissimi italiani, io tra quelli tra l'altro, mi ci metto. Senti, tu per capire quanti anni fa, tu avevi 13 anni quando è accaduta questa storia, sì, oggi sì. Ne hai? 54. 54, quindi erano 40 anni fa. Sì, 40 anni fa. Senti, che ricordo hai della nonna, ad esempio? La nonna, che intanto si dice Baka in croato, era una donna che ha cresciuto tre figli in modo molto energico e difficoltoso, perché è rimasta vedova intorno ai 40 anni, uh-huh. E è una donna assolutamente decisa, caparbia, minuta, ma con un carattere di ferro, diciamo. Senti, e lei aveva proseguito nel viaggio, giusto? Siete stati tu e tua mamma a dover fare tutto quell'iter? Assolutamente, 20 chilometri prima della frontiera doganiere, che era salito sul treno, ha detto la signora, la mia Baka, la mia nonna poteva proseguire, e noi che avevamo un passaporto che non era di un paese che faceva parte in qualche modo dell'area, diciamo, dell'Unione Sovietica, uh-huh. Ci hanno fatto scendere. Senti, poi ti sei fatto questo viaggio in treno con tua mamma. Io sono curiosissimo di sapere com'erano ad esempio i treni di quell'epoca. Allora, purtroppo non molto diversi da quelli italiani di quest'epoca, parlo almeno dei treni degli anni 80-90, però poi c'è stata una visione a Varaždin di questo treno a vapore, che fu una cosa che io non ho mai visto, che era tuttora allora funzionante, assolutamente, però il treno era decente, diciamo, non particolarmente vetusto o vecchio. Insomma. Senti, invece l'arrivo dai parenti ungheresi com'è andato? No, beh, dall'arrivo in poi è stato molto, molto tranquillo. Chiaramente si percepiva un'area diversa rispetto alla Jugoslavia. La Jugoslavia era un paese non allineato, quindi Tito aveva ottenuto, come dire, una sorta di affiliazione. Adesso io non so usare un termine più corretto, però vicino ma indipendente. Invece là si respirava proprio l'aria della cortina di ferro, dove avevano provato l'esperienza della convivenza coatta, dove certi beni che per noi sono scontati erano lussi, l'auto privata era un investimento epocale, infatti c'era un parco auto negli anni, fine anni 70, che era ridotto, che era incredibile, cioè c'erano delle macchine che sembravano delle caricature di autovetture. Senti Martino, cosa fai adesso nella vita? Agente di commercio. Oh, la grande famiglia di agenti di commercio. E che cosa, in cosa commerci? Io frequento negozi di ferramenta e utensileria e vendo prodotti appunto per questo tipo di articoli in mezzo a Lombardia praticamente. Il sogno, vado nei negozi professionali. Il sogno di ogni bambino, avere a che fare con martelli, sì, sì, trapani, chiodi, insomma, sei un uomo fortunato. Martino, ti lascio tornare al lavoro, allora ti ringrazio per la storia e la chiacchierata. In bocca al lupo. Grazie a te. A presto. Ciao Matteo. Ciao, ti ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Grazie mille Martino per la storia che ci ha mandato. Vi ricordo che l'indirizzo per inviarci la vostra storia di confine, in questo caso realmente di confine e non solo metaforico, è sempre lo stesso, che è lineedombra@radio24.it. È un indirizzo email, ci mandate la vostra storia, ci lasciate possibilmente anche un numero di telefono, noi le prendiamo e ci facciamo un'intera puntata. L'importante è che sia una storia che appunto nel mezzo ha una linea sottile o spessa o molto larga, decidete voi, è vostra la vita che avete vissuto, è vostra la linea d'ombra che avete valicato. L'importante appunto è che sia una storia che racconti di un grosso cambiamento dovuto a un passaggio di quel tipo lì. L'aviatore Ben Ilson decollò da Anchorage in Alaska il 20 settembre 1929 col suo velivolo, aspettandosi di ritrovare il suo amico Russ Merrill, che era scomparso nel giro di poche ore. Ilson non pensava di avviare una massiccia ricerca, né tantomeno di dover chiamare altri piloti ad aiutarlo, e, ancora meno, pensava di mettere a rischio la propria vita per settimane in un vano tentativo di ritrovare il suo amico. Il volo di Merrill col suo idrovolante sarebbe dovuto durare 3 ore, ma nessuno lo vide più. Questa è la sua storia, è la storia della conquista di una nuova frontiera, l'Alaska, è iniziata proprio all'inizio del secolo scorso. State con noi. Merrill aveva 35 anni quando scomparve. Spesso descritto da chi lo conosceva come un uomo dagli occhi lucidi e attento. Nato e cresciuto in Iowa, aveva imparato a volare nella Marina degli Stati Uniti durante la Prima Guerra Mondiale. Negli anni successivi aveva finito l'università e aveva lavorato come ingegnere e manager, poi si era sposato e aveva messo su famiglia. Ma fece anche tutto il possibile per tornare a volare, la sua prima vera passione. Insieme a un collega pilota e a un meccanico, Merrill arrivò in Alaska nel 1925, volando a Ketchikan con grandi progetti per fondare un business legato proprio al volo lì, in Alaska. Amava così tanto la zona che mandò a prendere moglie e figli solo una settimana dopo e li trasferì lì insieme a lui. Il primo agosto di quell'anno, Merrill e il suo socio Davis divennero i primi ad attraversare il Golfo d'Alaska volando per 1200 chilometri. Quasi 3 settimane dopo furono i primi a volare ad Anchorage. Ovunque andassero, si formava una folla e gli affari seguivano rapidamente. Non c'erano molti piloti in Alaska negli anni 20 e 30. Così, con Merrill, Davis e quelli che seguirono, arrivò una sfilza di primati. Primo a volare attraverso il circolo polare artico, primo a volare attraverso il mare di Bering, primo ad atterrare su un ghiacciaio e primo ad atterrare all'interno di un vulcano attivo. Le mappe non dicevano a questi uomini praticamente nulla. Merrill faceva parte di uno di quei piccoli gruppi di piloti che hanno letteralmente disegnato la mappa dell'Alaska. Negli anni questo gruppo di aviatori ha creato una leggenda e il mito del pilota di frontiera creato dalle loro imprese è rimasto una componente fondamentale della storia dell'ultima frontiera fino ad oggi. In quegli anni e in quelle zone, ma soprattutto con quegli aerei, i ritardi erano comuni. Così come le storie di piloti che emergevano illesi dai ghiacci dopo ogni sorta di ritardi, di guasti e di contrattempi. Off to Alaska in 1925, 31-year-old Russell. Nel 1925 il giovane 31enne Russ Merrill decollava dal fiume Willamette in Oregon per dare vita al suo sogno di creare un servizio aereo su cieli dell'Alaska. Prese il volo con un aereo modificato e 3 passeggeri e 600 kg di peso. Sua moglie lo salutava dalla costa in un misto di speranza e angoscia e guardava quel buffo aereo sparire all'orizzonte, tra le nuvole, sapendo che stava per viaggiare migliaia di chilometri, una strada lunga e difficile per raggiungere il nord dell'Alaska. Secondo i racconti, l'ultimo volo di Merrill non avrebbe dovuto essere diverso da tutti gli altri. Sarebbe atterrato su un lago ghiacciato lungo il suo percorso. Avrebbe dovuto dirigersi verso una cabina o un campo in cerca di assistenza. Avrebbe dovuto uscirne vivo, perché l'avevano sempre fatto prima. Parte del motivo per cui c'erano leggende che circondavano questi primi piloti è perché anche in uno degli ambienti di volo più pericolosi al mondo, questi erano uomini che ne uscivano sempre vivi. Quel giorno si svegliò alle 3 del mattino, fece colazione con sua moglie e partì per la prima volta alle 5.30. Trasportò dei passeggeri al lago Tuzumena e fece ritorno carico di rifornimenti ed altri passeggeri. E poi partì di nuovo, arrivando nella capitale, ad Anchorage, alle 2.30 del pomeriggio. Qui caricò 30 kg di posta e un compressore per una miniera della zona. Il suo piano, quando era partito, era di pernottare in un villaggio chiamato Sletmoot e proseguire verso la miniera il giorno successivo. Quando lasciò la capitale, Merrill era sveglio da 13 ore e aveva volato per circa 6. Il suo programma prevedeva di lavorare più di 16 ore quel giorno, con circa 9 ore di volo. Era un piano che non sarebbe legale oggi, secondo i moderni regolamenti che permettono solo 8 ore di volo massimo in un'unica giornata. La sua situazione era ancora più complicata perché il suo velivolo era un aereo a cabina aperta, che richiedeva quindi una maggiore concentrazione per operare rispetto ai moderni aerei. La stanchezza rendeva tutto più difficile e molti piloti si erano addormentati in volo, svegliandosi ormai troppo tardi, solo quando qualcosa era andato terribilmente storto. Il suo amico Ilsen, che era scomparso e sopravvissuto 2 anni prima, si mise a capo della ricerca di Merrill insieme ad un altro pilota. Volarono lungo ogni possibile percorso tra Anchorage e Sletmoot, parlando con gli abitanti del villaggio, con i cacciatori, i minatori, i contadini, in una ricerca infruttuosa di indizi. Finalmente, 5 settimane dopo il decollo di Merrill, l'unica risposta arrivò ad Anchorage. Il pescatore di un villaggio arrivò in città con un pezzo di stoffa che era rimasto impigliato nella sua trappola per pesci. Sulla base delle cuciture e del colore, il meccanico, che aveva recentemente revisionato l'aereo di Merrill, riconobbe il pezzo di tessuto verde come parte dello stabilizzatore del velivolo, che all'epoca aveva delle componenti proprio in stoffa. Si suppose che Merrill fosse stato costretto ad atterrare a causa di problemi meccanici. Il maltempo della notte aveva portato lui e il suo aereo in mare. Alla fine non si trovò più nulla. Ben Ilson, Harvey Barnell, Alonzo Cope and Joe Crossan flew the skies. I suoi amici volarono sopra i cieli per settimane, ma non trovarono nulla. Furono condotte ricerche per villaggi, laghi e boschi, con barche e uomini muniti di cani, ma l'aereo di Merrill e il suo corpo non furono mai più ritrovati. 2 mesi dopo la scomparsa di Merrill, Ilsen partì su un volo charter con il suo meccanico per trasportare pellicce da una nave di ghiaccio al largo della Siberia. Non sono mai arrivati. Dopo 3 mesi di ricerche approfondite, il loro aereo è stato recuperato fracassato sulla tundra. Entrambi gli uomini erano morti sul colpo. La scomparsa e la morte di Merrill non sono state un motivo di cambiamento in Alaska, ma piuttosto la prima prova che il cambiamento era già arrivato. I suoi compagni, amici, piloti percorsero migliaia di chilometri e misero a repentaglio le loro vite e i loro affari per cercarlo. Ma negli anni successivi le ricerche, con rare eccezioni, furono drammaticamente ridimensionate. Il punto di svolta dello spirito avventuroso dell'aviazione dell'Alaska arrivò rapidamente e poco dopo che Merrill fu commemorato come un eroe, il lavoro venne riconosciuto come pericoloso non solo per il clima e la geografia dell'Alaska, ma anche per le esigenze intrinseche di cercare di servire una popolazione che si affidava così tanto agli aeroplani. I piloti spariscono ancora in Alaska. Da ultimo nel settembre del 2013, quando Alan Foster è scomparso mentre tornava a casa ad Anchorage da Yakutat. Nel 1930 l'aeroporto municipale di Anchorage fu ribattezzato Merry Field e rimane in uso ancora oggi come aeroporto dell'aviazione generale. Una targa di bronzo sul campo recita così: a quell'impavido pioniere dell'aria, Russell Hyde Merrill, il cui obiettivo di vita era lo sviluppo dell'aviazione in Alaska. Desperation sits just like a friend upon the floor. My pictures are all torn around my feet. Mr. Madness points his eyes. La storia di Russell Hyde Merrill, cioè l'uomo che di fatto ha portato l'aviazione in Alaska nel 1920, all'inizio del secolo scorso, e appunto, come dice la storia, immaginateveli con questi aerei aperti in Alaska, nell'inverno dell'Alaska, nelle notti dell'Alaska. Noi questa storia l'abbiamo letta su Narratively, che è un sito che raggruppa delle storie soprattutto per tematiche. Questa era una serie di storie che parlava di persone che erano state in grado di andare oltre le frontiere del conosciuto, quindi di pionieri. Abbiamo trovato la storia di Russell Merrill. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a raccontare un'altra storia che ha a che fare con un confine, ma è un confine che cominciamo a conoscere, è quello del giovane legionario Antonio Cocco. Qualche anno fa mi era capitato di raccontare la storia di un uomo che era stato un reduce dei campi di sterminio, era un sopravvissuto ai campi di sterminio ed era un signore milanese che era molto anziano quando l'avevo conosciuto nel 2015, aveva 90-91 anni, mi pare di ricordare. Insomma, e lui mi aveva raccontato che quando era tornato dalla Germania, quando era riuscito ad arrancare fino a Milano, a casa, dopo 2 mesi di viaggio a piedi con dei mezzi ovviamente d'emergenza, aveva raccontato quello che gli era successo, ma l'aveva raccontato solo agli uomini, perché alle donne certe cose, mi disse, non le si raccontavano. Per cui non raccontava dei campi di concentramento, tantomeno raccontava dei morti, tantomeno dei forni crematori. Alla madre, alla sorella, alla zia, alla nonna, che era ancora in vita perché lui era giovanissimo, era un ragazzo di 20 anni, certe cose, lui mi disse, non le avevo raccontate, perché alle donne certe cose non si raccontavano. Ecco, in questa lettera di Antonio Cocco, il giovane legionario di cui stiamo raccontando la storia, che se ne va da Venezia per un colpo di testa perché prende un cattivo voto a scuola e arriva in Francia e viene coattamente arruolato nella legione straniera, si percepisce esattamente la stessa accortezza nei confronti delle donne di famiglia. Nella fattispecie in questo episodio. In questo episodio sentiremo una lettera che Antonio scrive alla madre. Questo è un episodio che Mauro ha titolato Ogni 2 giorni ti scriverò una lettera, perché questa è la sua volontà, però le lettere arrivano e no, arrivano sì e no, spesso non vengono nemmeno spedite. Lo racconterà lui che cosa accade lì in Algeria, e il tono che lui usa è completamente diverso da quello che usa con il padre. È più attento, è più accorto, anche se qua e là delle cose le dice, delle cose che probabilmente alla mamma fanno molto male. Credo che sia un tentativo di non far passare troppo tempo da quando arriva la lettera o da quando lui è partito al momento in cui lui spera di poter tornare a casa, perché appunto a Venezia in famiglia stanno presumibilmente organizzando tutto per farlo tornare a casa. E questa è la lettera. Lui è sempre Antonio Cocco. Mamma cara, questa è la seconda lettera che ti scrivo. Spero ti pervenga almeno questa seconda. Vedi come vanno a finire le cose? 3 giorni fa, prima di partire per la marcia, ho dato una lettera da spedire ad un italiano. Ieri, appena tornato, gli ho chiesto se l'avesse imbucata e lui, candidamente, mi disse che se l'era dimenticato. Vedi quanto è facile che vadano perse. Per fortuna ora possiamo uscire e così le imbucherò fuori io, almeno sarò sicuro che ti arriveranno. Se tu sapessi come mi fanno cadere le braccia le tue lettere, dove dicono che non ricevi più mie notizie dall'11 di giugno. Non riesco a capire però come siano pervenute agli altri e proprio a te mai. Tuttavia adesso ogni 2 giorni ti scriverò una lettera per tenermi bene in contatto, anche per sapere come vanno le cose a Venezia e se il mio rimpatrio è prossimo. Noi fra 1 mese o 1 mese e mezzo al massimo partiamo per l'Indocina e se le cose non van fatte in furia, temo dovrò partire anch'io. Vorrei sapere una cosa però, cosa ti rispondono queste benedette autorità e se mi danno possibilità di rimpatrio? Qui alcuni dicono di sì, altri di no, altri ancora che si deve pagare un sacco di quattrini, ma se ne sentono di tutti i colori. So che era andato il consolato italiano, il consolato francese, ha girato dappertutto, aveva battuto tutte le porte possibili e immaginabili, dal vescovo, dei ro, eccetera, e so solo che a un certo punto l'autorità italiana gli aveva scritto che sicuramente avrebbero fatto, aveva dato ordine alla Francia perché li mandasse a casa Tony. Se ne fregava talmente, pensati, se levavano via uno dalla legione straniera a 18 anni già compiuti con il bisogno che avevano di gente da mandare allo sbaraglio dentro l'anno. Ma non neanche risposto, credo. Comunque c'è una lettera, mi pare, del ministero, qualcosa che ordina alla Francia di far tornare Tony. Non si è neanche avuto risposta, è ovvio, insomma. Avevo enorme bisogno di gente di mandare al macello, perché negli attacchi così mandavano avanti tutti quelli della legione straniera, insomma. Ti scriverò in una mia prossima della marcia di 3 giorni e del rientro in prigione per 1 giorno e 1 notte a causa di un equivoco e quante botte ho preso. Questa lettera la voglio scrivar neta par veder se la teriva ostrega. Non so come ringraziarti per i 500 franchi, sono stati proprio una manna, perché non sapevo più come fare per scrivere. Mi sono ben guardato dal mostrarli ai miei debitori, altrimenti addio bolli e addio lettere. Questa sera scriverò a Don Germano per la terza volta, eppure per la terza volta a Don Legrand. Devo scrivere inoltre a Paolo e ad un altro italiano che è in Marocco. L'asma mi dà ancora fastidio, specie quando si marcia e si dorme per terra o sotto la pioggia, però va migliorando e di giorno non mi dà assolutamente fastidio. Temo che se dovessi essere visitato mi prenderebbero a pedate. Scrivimi se Ciccio e Resto hanno ricevuto la risposta, perché mi dispiacerebbe pensassero che non voglia loro rispondere. Perché i coupon siano validi, bisogna che me li mandi senza bollo da 10 lire. Un abbraccio a te, mamma. Tony. Prosegue ogni giorno una goccia in questo mare, la storia di Antonio Cocco, potete recuperarla sul libro che si chiama La ridotta Isabella, oppure potete riascoltarvela ogni sabato rimandiamo in onda le 5 pillole di storie seriali della settimana alle 21.30, altrimenti ovviamente in podcast ci sono tutte le puntate di Linee d'Ombra o solo ed esclusivamente le 5 pillole, che quindi potete sentirvi in fila, uno in fila all'altra, e godervi tutta quanta la storia fino a questo punto che raccoglie Mauro Pescio. Ora ascoltiamo il GR e poi diamo la linea a Giampaolo Musumeci. Noi invece torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva! Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.